America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Cominciamo con un piccolo approfondimento economico. La borsa, intanto, il Beige Book, il rapporto della Federal Reserve, delle banche regionali della Federal Reserve, che dà un po' un quadro all'economia americana, ieri non ci ha dato un quadro del tutto soddisfacente. Beh, non è una novità, sappiamo che l'economia americana è debole, continuano ad esserci macchie di leopardo, però sappiamo anche che tutto sommato l'economia americana non è entrata in double dip, ma il Beige Book continua a registrare una ostinata debolezza del tasso di crescita, e dunque la borsa, che fino a quel momento era andata abbastanza bene, senza infamia e senza lode diciamo, ha invertito la tendenza, ha perso 62 punti, circa lo 0,63%, e ha chiuso così una giornata non particolarmente significativa. Significativa la giornata però per Morgan Stanley, che ha comunicato un profitto, pensate, di 2,15 miliardi di dollari per il terzo trimestre. Morgan Stanley era considerata una delle banche più a rischio, era salito enormemente il costo dell'assicurazione sul suo debito, e in realtà poi ha prodotto questo risultato. Un risultato però che, se andiamo a scavare bene, deriva da una modifica contabile perfettamente legittima, ma questa modifica della posizione debitoria gli ha consentito di accumulare un guadagno straordinario di 3,4 miliardi di dollari. Due notizie tecnologiche. Intanto la Apple, vi avevo anticipato ieri che i risultati non erano stati così soddisfacenti, beh, alla fine ha bruciato quasi 20 miliardi di dollari di capitalizzazione, più o meno mediamente ha perso il 5% del suo valore, soltanto perché i profitti sono aumentati del 54% invece del 58%, quindi comunque un aumento molto soddisfacente. Però il mercato aveva già scontato questi valori, e dunque la preoccupazione di fondo riguarda la capacità di tenuta di questa straordinaria azienda, soprattutto nei confronti della concorrenza. Sempre tecnologia, Groupon, beh, sta cercando di raccogliere privatamente fra i 500 e i 700 milioni di dollari di capitale per il 10% del suo pacchetto azionario. E una notizia un po' a sorpresa, perché Groupon in realtà si diceva sarebbe andata in borsa, si diceva che valeva addirittura 20 miliardi di dollari, invece a queste valutazioni ne vale soltanto 12 e qualche cosa, quindi la metà di quel che sembrava valere appena pochi mesi fa. Anche questa società tecnologica, che crea dei buoni acquisto per i consumatori che aderiscono al suo sito e che aveva impazzato, raccolto milioni e milioni di adesioni, beh, i tempi duri colpiscono anche l'alta tecnologia. Governor Romney, you're doing the same thing that they're doing. You're mixing apples and oranges. You're going to pay the state sales tax no matter what. Il dibattito repubblicano di Las Vegas, beh, devo dire, è stato uno dei dibattiti più vivaci fra quelli che abbiamo visto finora. Avete sentito qui poco fa la voce di Herman Cain, che parla di mele e di arance e sta attaccando Mitt Romney. Mitt Romney è stato oggetto di attacco un po' da tutti i candidati. Rick Santorum lo ha attaccato, il governatore Perry, il governatore del Texas, lo ha attaccato anche piuttosto violentemente. Però devo dire che questo Mitt Romney è venuto fuori come un personaggio abbastanza straordinario, in controllo, in grado di tenere perfettamente testa a qualunque di questi contendenti, e mi viene da sorridere perché in realtà il governatore Perry, quando ha cercato di attaccarlo, lo sentiremo più in là, è rimasto alquanto sbalordito quando si è accorto che Romney non era per nulla intimidito e anzi gli rispondeva a tono. In questo caso Herman Cain dà un po' una bacchettata sulle dita a Romney, gli dice: ma come, tu non sai neanche distinguere fra le mele e le arance? Da una parte hai le tasse al consumo per lo Stato, dall'altra è quello federale, sono cose diverse. Ricordiamo che Herman Cain ha proposto un piano chiamato 999, dove propone di introdurre per esempio un'aliquota fissa del 9% sul reddito, ma di introdurre anche una tassa al consumo federale, una specie di IVA al 9%. E sentiamo a questo punto come continua il dibattito. That's apples and oranges. Fine. Yes. And I'm going to be getting a bushel basket that has apples and oranges in it, because I'm going to pay both taxes. No, and the people in Nevada don't want to pay both taxes. No. La domanda continua, in realtà, di Mitt Romney è legittima. Dice: ma tu vuoi tassare al consumo solo a livello federale e cancellare lo Stato, o vuoi tenere anche la tassa dello Stato? E Cain continua a ripetere: ma si tratta di arance e di mele, non puoi mischiarle, sono due cose diverse. E a quel punto ecco il punchline, lo avete sentito prima, dove il pubblico ha reagito con una grossa risata. Devo dire, ha riso anche Rick Perry, che era vicino a Mitt Romney, perché la battuta è stata prontissima. Dice: beh, saranno arance e mele, però io mi ritrovo con un unico paniere di tasse tasse. Prima ne pagavo soltanto in Nevada una, adesso ne devo pagare due. Ecco, battuta molto efficace. Dopodiché è stato il turno di Perry, che parte all'attacco questa volta sull'immigrazione, altro tema molto caldo, dove tra l'altro Perry è in difficoltà contro Mitt Romney. Sentiamolo. And Mitt, you lose all of your standing from my perspective because you hired illegals in your home and you knew for it, about it for a year. And the idea that you stand here before us and talk about that you're strong on immigration is on its face the height of hypocrisy. Ecco, l'attacco di Perry è piuttosto duro. Perry doveva in qualche modo partire all'attacco per riacquistare credibilità, visto che tutti gli altri dibattiti non hanno funzionato per lui. E dunque dice: Mitt, per conto mio, tu hai perso tutta la tua credibilità assumendo personale illegale dentro casa tua per almeno un anno e ne eri consapevole. Quindi il fatto che tu oggi sia qui davanti a noi a parlare della tua inflessibilità sull'immigrazione, beh, è il massimo dell'ipocrisia. Romney fa una risata che lascia un po' perplesso Rick Perry, che pensava di aver dato un pugno in faccia al suo concorrente, e dice: ma Rick, credo di non aver mai assunto un immigrato illegale in vita mia, quindi attendo con ansia che tu mi porti le prove di quello che dici. A questo punto Perry, ovviamente nervoso, interrompe più volte e sentiamo che cosa succede. You have a problem with allowing some of the finish speaking, and I suggest that if you want to become president of the United States, you got to let both people speak. So first, let me speak. Ecco, quello che succede è che Romney, di nuovo prendendo in contropiede Perry, gli dice: ma insomma, ma tu non puoi interrompere in continuazione un dibattito. Ma insomma, dice Rick, se tu vuoi diventare presidente degli Stati Uniti, devi anche essere in grado di ascoltare gli altri. Di nuovo la platea è esplosa in grandi risate. Dopodiché la spiegazione seria da parte di Romney, che dice: noi avevamo assunto una ditta di giardinaggio che aveva degli immigrati illegali al proprio servizio. Quando l'abbiamo scoperto, l'abbiamo subito licenziata. Questa storia, tra l'altro, non è nuova. Quindi il fatto che Perry tiri fuori questa vicenda già esplorata un po' in tutte le sue manifestazioni, beh, denota che forse la sua campagna è un po' stanca. E comunque sia, alla fine di quest'altro dibattito, il dibattito di Las Vegas, Romney è emerso come un candidato in grado di studiare a sangue freddo una buona componente tattica del suo atteggiamento nel dibattito, di essere in controllo e dunque di confermare di essere non soltanto il candidato di punta dei repubblicani, ma anche quello che potrà meglio tenere testa al presidente Barack Obama. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. John Bovi con la sua fondazione ha aperto un nuovo ristorante a Red Bank in New Jersey, qui al di là del fiume, al di là del fiume Hudson. La caratteristica, beh, sul menù non ci sono prezzi. Ognuno paga quello che può e per chi fa attività di volontariato per la comunità la cena è gratis. Quindi una nuova iniziativa filantropica di Bon Jovi. Vi faccio ascoltare Midnight in Chelsea. While she's holding on to her own hair, it's midnight in Chelsea. Midnight in Chelsea. No one's asking me for favors. No one's looking for a savior. They're too busy saving me. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.